Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nella scorsa lettura si è visto l'affermarsi di una sorta di guerriglia partigiana contro i francesi. Contadini, donne, diaconi si organizzano in piccoli gruppi o anche isolatamente agiscono contro l'esercito francese che è in ritirata. Kutuzov attende il momento opportuno per sferrare un attacco risolutivo. A capo di due di questi gruppi semispontanei abbiamo trovato due vecchie conoscenze, Denisov e Dolokhov. Ed è proprio Denisov che casualmente incontra, inviatogli da un ufficiale tedesco, un'altra vecchia conoscenza, Petya Rostov, il fratellino di Natasha e di Nikolai, che è tutto pervaso dall'entusiasmo di essere diventato grande e dal desiderio di distinguersi in qualche azione importante. Giunti al loro posto di guardia, i soldati cenano in allegria e Petya prova il desiderio di far mangiare qualcosa anche al prigioniero francese, un tamburino giovanissimo che lo muove a pietà. Dal tamburino, al quale per ordine di Denisov fu dato dell'acquavite e del montone, e che Denisov fece vestire con un gabbano russo per lasciarlo con la banda e non mandarlo via con i prigionieri, l'attenzione di Petya fu distolta dall'entrata di Dolokhov, il cui aspetto colpì stranamente Petya per la sua semplicità. Il suo viso era accuratamente raso, ed egli era vestito con la tunica ovattata di ufficiale della guardia, con la croce di San Giorgio all'occhiello e un berretto normale messo diritto sul capo. Egli depose in un angolo la mantelletta tutta bagnata e, avvicinatosi a Denisov senza salutare nessuno, subito si mise a fargli domande. Denisov gli disse le mire che avevano i grossi distaccamenti su quel convoglio, la missione di Petya e quel che egli aveva risposto ai due generali. Poi Denisov raccontò tutto ciò che sapeva sulla posizione del distaccamento francese. «Va bene, ma bisogna sapere quali e quante truppe sono», disse Dolokhov. «Bisognerà andare a vedere». Se non si sa con certezza quanti sono, non ci si può avventurare. Mi piace di fare le cose con cura. Non vorrebbe uno di questi signori venire con me fino al loro campo? Ho con me anche un uniforme. Io, verrò io con voi, esclamò Petya. A tutte le esortazioni di Denisov perché non andasse, Petya rispose che anche lui era abituato a fare le cose accuratamente e non a casaccio, e che al pericolo per sé non pensava mai. Perché siete d'accordo anche voi che, se non si sa quanti ce n'è laggiù, forse ne va della vita di centinaia di persone e noi invece saremo soli. E poi io ne ho una gran voglia e ci andrò assolutamente, non mi trattenete, disse, sarebbe peggio. Vestiti coi cappotti e i caschi francesi, Petya e Dolokhov si avviarono verso quella radura dalla quale Denisov aveva guardato nel campo, e uscendo dalla foresta in piena oscurità si inoltrarono nel valloncello. Giunto al basso, Dolokhov ordinò ai cosacchi che lo accompagnavano di aspettare lì e se ne andò al trotto serrato per la strada che conduceva ad un ponte. Petya, che veniva meno dall'emozione, cavalcava accanto a lui. Parlando perfettamente francese, Dolokhov riesce a infiltrarsi tra i soldati francesi, fingendo di cercare il sesto reggimento, e intanto si informa su quanti uomini essi abbiano per battaglione, e poi sui prigionieri, e su quanti battaglioni, e così via. I due prendono dunque la via del ritorno, e Dolokhov incarica Petya di avvertire Denisov di tenersi pronto per l'alba. Petya restò seduto un po' di tempo nell'isba, ricordandosi con gioia le circostanze della sua gita e rappresentandosi al vivo ciò che sarebbe accaduto l'indomani. Poi, accorgendosi che Denisov si era addormentato, si alzò e uscì fuori. Fuori era ancora buio perfetto. La pioggia era cessata, ma cadevano ancora delle gocce dagli alberi. Dietro la piccola isba nereggiavano due carri presso i quali stavano i cavalli e nel burrone rosseggiava un fuoco che si andava spegnendo. I cosacchi e gli usseri non dormivano tutti. Qua e là si udivano, insieme col rumore delle gocce e del vicino masticare dei cavalli, voci sommesse che pareva borbottassero. Petia dette un'occhiata intorno, nel buio, e si avvicinò ai furgoni. Qualcuno russava, e intorno ad essi stavano dei cavalli sellati, masticando la biada. Nel buio, Petia riconobbe il suo cavallo, che egli chiamava Karabakh, benché fosse un cavallo della piccola Russia, e si avvicinò ad esso. «Ehi, Karabakh, domani avremo da fare», disse, carezzandolo sulle narici e baciandolo. «Che è, signore, non dormite?» disse un cosacco seduto sotto a un furgone. «No, ma ti chiami Likachov, vero?» «Fareste bene a dormire», disse il cosacco. «No, ci sono abituato», rispose Petia. Il cosacco sbucò da sotto al furgone per guardare il ragazzo più da vicino. «Senti, mi fai un piacere, caro, affilami la sciabola. Si può fare?» «Perché no? Si può?» Likachov si alzò, frugò nel sacco e Petia udì subito il rumore guerresco dell'acciaio e della pietra da arrotare. Egli saltò sul furgone e si sedette sull'orlo. Il cosacco, sotto al furgone, affilava la sciabola. «Beh, dormono questi giovanotti?» chiese Petia. «Chi dorme e chi no?» «E il tamburino?» «Si è buttato là nell'entrata. Si è addormentato dalla paura. Com'era contento!» Dopo ciò Petia tacque per un pezzo, prestando ascolto ai diversi rumori. Petia avrebbe dovuto sapere che si trovava nella foresta, presso la banda di Denisov, a un miglio dalla strada, che era seduto su un furgone preso ai francesi, intorno al quale erano dei cavalli legati, che sotto di lui sedeva il cosacco Likachov e gli affilava la sciabola, che la grande macchia nera a destra era il posto di guardia e la macchia di un rosso vivo laggiù a sinistra era il fuoco che si spegneva. Ma egli non sapeva nulla di ciò e non voleva sapere nulla. Egli era in un regno incantato, nel quale nulla somigliava alla realtà. La grande macchia nera poteva essere il posto di guardia, ma poteva anche essere una caverna che conduceva nelle profondità della terra. La macchia rossa poteva essere un fuoco di bivacco, ma poteva essere anche l'occhio di un enorme mostro. Poteva darsi che egli ora fosse seduto su un furgone, ma poteva benissimo darsi che fosse seduto non su un furgone, ma su una torre spaventevolmente alta, cadendo dalla quale per giungere a terra avrebbe dovuto volare tutto un giorno, tutto un mese, volare sempre, volare, volare, e non finire mai di volare. Era possibile che sotto il carro fosse seduto semplicemente il cosacco Likachov, ma era possibilissimo che fosse invece l'uomo più buono, più valoroso, più straordinario, più eccellente del mondo, ignoto a tutti. Guardò il cielo. Anche il cielo aveva un aspetto magico, come la terra. Si rischiarava e sulle cime degli alberi correvano rapidamente le nuvole, come scoprendo le stelle. A volte pareva che il cielo fosse sgombro e si mostrava nero e pulito. Petia cominciava a chiudere gli occhi e a ciondolare. Cadevano gocce di pioggia. Veniva un mormorio di voci. I cavalli nitrivano e si mordevano. Qualcuno russava. Fischiava la sciabola che si stava affilando e a un tratto Petia udì un coro armonioso che cantava un inno sconosciuto, solenne e dolce. Petia aveva disposizione per la musica, come Natasha e più di Nikolai, ma non aveva mai studiato musica, non pensava alla musica, e perciò i motivi che gli venivano in mente inaspettati erano per lui assolutamente nuovi e attraenti. La musica suonava sempre più forte, il suono saliva, passando da uno strumento all'altro. Diventava ciò che si chiama una fuga, benché Petia non avesse il minimo sentore di ciò che è una fuga. Ogni strumento, ora simile a un violino, ora a una tromba, ma più dolce e più puro del violino e della tromba, suonava la sua parte, ma senza finire un motivo si fondeva con un altro che cominciava quasi nello stesso modo e poi con un terzo, con un quarto e poi tutti si riunivano in uno e di nuovo si dividevano e si riconfondevano ora in qualcosa di solenne e chiesastico, ora in qualcosa di sfolgorante e trionfale. «Ah, sì, sì!» «Sto sognando», disse fra sé Petia, chinandosi in avanti. «È negli orecchi. O forse è musica mia. Ecco, di nuovo. Avanti, musica mia. Avanti!» Chiuse gli occhi. E da diverse parti, come in lontananza, si misero a vibrare suoni. Cominciarono ad accordarsi, a sparpagliarsi, a confondersi, e di nuovo tutto si concentrò nello stesso inno, solenne e dolce. «Ah, che delizia! Suona quanto voglio e come voglio», disse fra sé Petia, e si provò a dirigere quell'infinito coro di strumenti. «Piano, piano, smorzate ora!» E i suoni gli obbedivano. «Su, su ora! Più forte, più allegro! Ancora, ancora più gioioso!» E da profondità sconosciute sorgevano suoni che si alzavano, solenni. «Su, entrate voci!» ordinò Petia. E da lontano si cominciarono a udire voci maschili e poi voci femminili, e le voci si elevarono in uno sforzo misurato e solenne. A Petia dava spavento e gioia insieme ascoltare la loro straordinaria bellezza. Alla solenne marcia di trionfo si mischiava una canzone, e gocce d'acqua cadevano e... fischiava la sciabola, e di nuovo i cavalli nitrivano e si mordevano senza turbare il coro, ma partecipandovi. Petia non sapeva da quanto tempo ciò durasse. Ne godeva e continuava a meravigliarsi del suo godimento e rimpiangeva di non avere nessuno a parte del suo piacere. Lo riscosse la voce affettuosa di Likhachov. «È pronta, vossignoria. C'è da tagliare in due i francesi». E Petia si svegliò. Rapidamente, in quella penombra, ciascuno prese il suo cavallo, si strinsero le cinghie e ci si divise per le parti. Denisov, in piedi presso il posto di guardia, dava gli ultimi ordini. La fanteria della banda, col calpestio di centinaia di piedi, passò innanzi sulla strada e scomparve fra gli alberi nella nebbia che precedeva l'alba. Petia teneva il suo cavallo per la briglia, aspettando con impazienza l'ordine di montare in sella. Il suo viso, lavato con l'acqua fredda, e specialmente gli occhi, ardevano infocati. Dei brividi gli correvano per la schiena e in tutto il suo corpo qualche cosa tremava, rapidamente e quasi ritmicamente. Petia, che si sentiva leggero, saltò in fretta in sella e, gettando un'occhiata agli ussari che si avviavano nel buio dietro di lui, si accostò a Denisov. «Vassili Fyodorovich, mi affiderete qualche cosa? Ve ne prego, per l'amor di Dio», disse egli. Denisov sembrava aver dimenticato l'esistenza di Petia. Gli gettò un'occhiata. «Di una sola cosa ti prego», disse severamente, «di obbedirmi e di non andare a ficcarti da nessuna parte». Per tutto il tempo della marcia, Denisov non disse più una parola a Petia e cavalcò in silenzio. Quando giunsero al limite della foresta, nella piana era già giorno chiaro. Giunto al basso e guardandosi indietro, Denisov fece un cenno col capo al cosacco che gli stava vicino. «Il segnale», disse. Il cosacco alzò il braccio ed echeggiò un colpo. E nello stesso momento si udì il calpestio dei cavalli che si buttavano avanti, gridi che partivano da diversi lati e altri spari. Nel medesimo istante che si udirono i primi calpestii e i primi gridi, Petia, spronando il suo cavallo, si precipitò innanzi a briglia sciolta, senza ascoltare Denisov che gli urlava dietro. A Petia, quando sentì il primo colpo, parve che fosse a un tratto chiaro come di mezzogiorno, e galoppò verso il ponte. Davanti a lui, sulla strada, galoppavano i cosacchi. Sul ponte si urtò con un cosacco rimasto indietro e galoppò oltre. Davanti a lui, degli uomini, dovevano essere francesi, correvano da destra a sinistra sulla strada. Uno di essi cadde nel fango sotto le zampe del cavallo di Petia. Davanti si udirono dei colpi di fucile. Cosacchi, ussari, prigionieri russi tutti laceri, correndo ai due lati della strada, gettavano alte grida incomposte. Un francese dal cappotto turchino, senza berretto, con un viso rosso e convulso, si difendeva con la baionetta contro gli ussari. Quando Petia giunse al galoppo, il francese era già caduto. «Di nuovo in ritardo», balenò nella mente di Petia, e egli si diresse al galoppo là donde venivano frequenti colpi di fucile. I colpi rimbombavano nel cortile di quella casa padronale nella quale egli era stato la notte innanzi con Dolokhov. I francesi s'erano nascosti là, dietro una siepe, in un giardino tutto folto di cespugli, e tiravano sui cosacchi che si affollavano al portone. Avvicinandosi al portone, Petia, nel fumo della polvere, vide Dolokhov con un viso pallido, verdastro, che gridava qualcosa ai suoi uomini. «Fate il giro! Si aspetti la fanteria!» gridava egli nel momento che Petia gli si avvicinava al galoppo. «Aspettare!» gridò Petia, e senza perdere un istante si gettò verso quella parte donde venivano i colpi di fucile e dove era più denso il fumo della polvere. Si udì una scarica, e fischiarono le palle a vuoto e quelle che andarono a sbattere contro qualche cosa. I cosacchi e Dolokhov si precipitarono dietro a Petya verso il portone della casa. Petya galoppava sul suo cavallo intorno al cortile della casa padronale e invece di tenere le redini faceva strani e rapidi gesti con tutte e due le braccia e pendeva sempre più da un lato della sella. Il cavallo, avendo urtato in un mucchio di legna che si spegneva nella luce della mattinata, recalcitrò e Petya cadde pesantemente sulla terra umida. I cosacchi videro che egli muoveva rapidamente le braccia e le gambe, sebbene il capo rimanesse immobile. Una palla gli aveva trapassato la testa. Dopo aver parlato col più anziano degli ufficiali francesi, che era uscito da dietro la casa e veniva verso di lui con un fazzoletto sulla punta della sciabola, dichiarando che lui e i suoi si arrendevano, Dolokhov smontò da cavallo e si avvicinò a Petya, che era disteso per terra, immobile, con le braccia aperte. «È spacciato», disse, corrugando le sopracciglia, e andò verso il portone, incontro a Denisov, che veniva verso di lui. «Ucciso!» gridò Denisov, vedendo da lontano la posizione nella quale giaceva il corpo di Petya, che era indubbiamente di una immobilità senza vita. «È spacciato», ripeté Dolokhov, come se pronunziare quella parola gli facesse piacere, e rapidamente si accostò ai prigionieri che i cosacchi si affrettavano a circondare. Denisov si avvicinò a Petya, scese da cavallo e con le mani tremanti volse verso di sé il viso del ragazzo, insudiciato di sangue e di fango, e che già era impallidito. «Sono abituato alla roba dolce. Dell'uva passa eccellente. Prendetela tutta». Gli tornarono in mente queste parole. E i cosacchi si volsero stupiti a guardare, udendo il gemito simile al guaito d'un cane, con cui Denisov si voltò in là rapidamente, andò verso la siepe e vi si appoggiò. Nel numero dei prigionieri russi ripresi da Denisov e Dolokhov era anche Pierre Bezukhov. Dopo il 28 ottobre, quando era cominciato a gelare, la fuga dei francesi aveva assunto un carattere più tragico. Precipitatisi a Smolensk, che appariva loro come la terra promessa, i francesi si uccidevano l'un l'altro per i viveri, saccheggiavano i loro stessi magazzini e, quando tutto fu rapinato, fuggirono oltre. Tutti andavano, senza sapere essi stessi dove e perché andassero. Anche meno degli altri lo sapeva il genio di Napoleone, visto che nessuno gli dava ordini. Ma tuttavia lui e coloro che gli stavano intorno conservavano le antiche abitudini. Venivano scritti ordini, lettere, rapporti. Ci si chiamava l'uno con l'altro «Sire, mon cousin, prince de Cumule, roi de Naples». Ma gli ordini e i rapporti erano soltanto sulla carta. Non erano eseguiti in nessuna parte, perché non si potevano eseguire. E malgrado le scambievoli denominazioni di maestà, altezza e cugini, tutti sentivano di essere persone miserevoli e indegne, le quali avevano fatto molto male che ora bisognava pagare. E benché fingessero di preoccuparsi dell'esercito, ognuno di loro pensava soltanto a se stesso e al modo di poter andarsene e salvarsi al più presto. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it